Quella è amorosa fe, quello è un bel core. Non mi richiama ancor. Anima mia, o svelami tua brama, o mi vedrai ora al tuo piede spinto. Ingegnosa crudel, per fine hai vinto. Sulla rupe che vede un gentio vaso, serva l'acque fatali, onde vedeva che gli accadenti sole fer rifiorir l'etade. Io le vorrei. E valea i tuoi sospir, si lieve brava. Vigile sempre al loro gusto d'intendo, orribil mostro, indomito dimora. Il domeo. Noi fortunati ancora potrem durando sempre in fior d'etade rendere eterni i nostri dolci affetti. Oh, soave sperar, quanto malletti. Oddio, t'amo e pavento. T'amo. E si gran vigore infonde nel mio sen, cara al tuo amore. Ogni periglio io sfido, la rupe io saglio e il fiero mostro uccido. Già saglio. E pur scoscesa. L'ale mi presta amor. Vicino al porto già sei giunta mia frode. Mostro crudele. I sibili ne ascolto. E credulo che gli è per figlio colto. Mostro, ove sei, che fia.